Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Esiste un nesso tra l'uso scorretto del cellulare e l'insorgenza di alcuni tipi di tumore, lo afferma la Corte d'Appello di Torino. A Obiettivo Salute il commento del professor Carlo Lavecchia, professore ordinario di statistica medica ed epidemiologica dell'Università degli Studi di Milano e ricercatore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Buongiorno a tutti. Stiamo parlando di una sentenza che riguarda un tumore benigno del nervo dell'orecchio, del nervo auricolare, un neurinoma acustico. La questione, l'argomento onde radio, in particolare onde elettromagnetiche dai cellulari, che sono onde radio con potenza estremamente bassa e alta frequenza rispetto a quelle che usiamo per la radio o la televisione, è stata ampiamente studiata. In particolare l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha condotto e pubblicato attorno al 2011-2012 il più grosso studio sull'argomento, che si chiama Interphone, che è essenzialmente negativo, non mostra nessuna associazione sia per quanto riguarda i tumori cerebrali maligni e sia per quanto riguarda anche i neurinomi, cioè i tumori benigni del nervo acustico. Quindi diciamo che l'evidenza globale è oggi ampiamente rassicurante. Professor Lavecchia, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro nel 2011 ha inserito le onde radio emesse dal cellulare nella categoria dei possibilmente cancerogeni. Che significa? Le categorie usate sono essenzialmente quattro, da cancerogeni a probabilmente, possibilmente e non vi è evidenza. Quindi diciamo è la categoria terza su quattro, in cui vi sono moltissime sostanze, dal ginkgo biloba all'aloa a molte altre sostanze che usiamo comunemente. E la differenza tra la classificazione che è stata adottata dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro e la decisione del Tribunale sta nel possibilmente e probabilmente. A quanto ho capito, nel caso specifico il Tribunale ha ritenuto che l'associazione non fosse possibile ma fosse probabile, quindi tale da giustificare una sentenza di questo tipo. Nell'attesa che la ricerca faccia chiarezza, quali sono le attenzioni e le precauzioni da adottare, professor Lavecchia? Ma io non darei raccomandazioni specifiche, di fatto non vi sono novità sul piano sia della scienza che della stima dei rischi, quindi possiamo come in precedenza ritenere che l'utilizzo del cellulare non sia un rilevante cancerogeno. Il messaggio importante è non confondere il cellulare con la sigaretta, essenzialmente, cioè dare una quantificazione dei possibili rischi. Dopodiché se per scelta personale un utilizzatore vuole usare gli auricolari, senza dubbio non c'è problema. L'importante secondo me oggi è apprezzare l'incertezza e la specificità e il basso livello di affidabilità dei dati sul rischio per quanto riguarda in particolare questo raro tumore, ossia il neurinoma acustico. Torneremo su questo tema nell'appuntamento di Obiettivo Salute Weekend di sabato a mezzogiorno. Adesso la programmazione di Radio 24 prosegue. Io vi aspetto in diretta Facebook. Ci occupiamo della maledizione del legamento crociato insieme al dottor Massimo Berruto, ortopedico del Gaetano Pini di Milano. Non mancate, vi aspetto, una buona giornata.